Dal prossimo 14 luglio finirà il supporto per Windows Server 2003. Sei pronto ad aggiornare la tua infrastruttura IT? Passa ora al cloud con Aruba. Vai su cloud.it e prova gratis i nostri servizi con la tecnologia Microsoft Hyper-V. Con Aruba passare al cloud è facile, rapido e conviene. Vai ora su cloud.it. Mix 24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Nel 96, con l'approvazione della Proposition 215, la California è diventato il primo stato federale degli Stati Uniti a rendere possibile l'uso terapeutico della cannabis. Oggi sono 20 gli stati federali a consentire a persone con precise malattie, come la sclerosi multipla, l'AIDS, il cancro, di alleviare le loro sofferenze con farmaci a base di cannabinoidi. In Europa, invece, l'Olanda è rimasta lungo sola ad applicare una politica di liberalizzazione delle droghe leggere, fino a quando, con regole diverse, molti stati europei, Italia compresa, hanno aperto all'uso in campo medico della cannabis. È infatti nel 2007 che in Italia è stato approvato per legge l'uso terapeutico di questa pianta. Oggi sono 11 le regioni italiane dotate di una legge sull'uso della cannabis. Spetta alle singole regioni scegliere se lasciare i farmaci a base di cannabinoidi a carico dei pazienti, come avviene per esempio in Germania, oppure a carico del servizio sanitario. Ecco, Maurizio Bifulco è il presidente della Facoltà di Farmacia e Medicina dell'Università di Salerno. Ormai da 20 anni fa ricerca sul sistema endocannabinoide. Ecco, professore, che cos'è in due parole il sistema endocannabinoide? Non è altro che un sistema di molecole semplici, sono dei lipidi, che sono situati all'interno di tutte le nostre cellule dell'organismo e che hanno delle funzioni importanti fisiologiche. Chiaramente, quando abbiamo poi delle situazioni, diciamo, degenerative di malattie, questo sistema viene alterato e quindi prospetta una possibilità di cure attraverso azione di composti che vanno a interferire in quella direzione. Ecco, ma per quali malattie è efficace l'uso del cannabinoidi? Al momento sulla sclerosi multipla sicuramente c'è delle applicazioni. Sull'AIDS, sulla patologia, sul dolore, su alcune lesioni neurologiche, e ci sono delle applicazioni che sono attuali. Noi, come ricercatori, perché lo faccio ricercatore certo, a tempo pieno, certo, mi occupo delle potenzialità, dei principi attivi di questa pianta. Ecco, professor Bifulco, ma i farmaci cannabinoidi che effetti collaterali hanno? Qualsiasi farmaco, io parto un concetto semplice, sì, e questo è un principio che è valido in tutta la farmacologia, qualsiasi, che possa essere anche la camomilla, l'aspirina, e chiaramente dipende dalle dosi e dipende da come è utilizzato. La cannabis e i principi attivi della cannabis non hanno grossi problemi collaterali se usati in maniera opportuna. Ma quindi, professore, di per sé il nostro metabolismo non si assuefa alla sostanza, diciamo? Allora, questa è un'altra... Cioè, l'uso dà o non dà dipendenza? Allora, la dipendenza la può dare, ma non diversamente, per esempio, da quello che può essere il fumo, da quello che può essere l'alcol, che provocano solamente danni maggiori. È bene che sappia il pubblico, certo, che ci sono delle sostanze che sono commercializzate, che sono pubblicizzate, che veramente hanno solamente degli effetti molto molto peggiori rispetto a quelli che sono, io parlo sempre, attenzione, dei principi attivi della cannabis. Naturalmente. E soprattutto delle molecole, perché io chiaramente non parlo di fumo. No, no, non naturalmente. Ecco, ma ci arriviamo. Ma le potenzialità del principio attivo della marijuana, cioè il THC, sì, a scopo terapeutico, sono state scoperte tutte queste potenzialità? Non tutte, anche il cannabidiolo. Mi piacerebbe sottolineare il cannabidiolo perché soprattutto in Italia stiamo partendo con delle progettualità importanti con la purificazione di questo cannabidiolo e con le applicazioni future. Professor Bifulco, ma questi farmaci non possono guarire le malattie, l'abbiamo detto, ma aiutare il paziente in qualche modo a convivere con la malattia, e questa è la potenzialità di questa ricerca, allora, no? Quello che è il concetto attuale nella farmacologia e in tutte queste malattie, purtroppo noi viviamo di un periodo in cui abbiamo un'incidenza aumentata di tumori soprattutto. Certo. E allora l'obiettivo adesso è quello di cronicizzare le malattie. Curare una malattia come il tumore è difficile, sono malattie che hanno più basi genetiche, ambientali, così come il diabete, l'obesità. E allora si cerca in qualche modo di portare a cronicizzare queste malattie nel tempo e quindi è aumentata la vita media, proprio legato a questa nostra capacità di portare, di far progredire la vita oltre quelli che erano i limiti di qualche anno fa. Certo, si fa tanta confusione, professor Bifulco, tra fumarsi una canna e usare il suo principio attivo per alleviare il dolore, le malattie gravi. È questo il punto? Certo, questo è sicuramente il punto, perché si fa confusione e c'è la paura. Allora, secondo me niente può essere, diciamo, temuto, tutto deve essere in qualche modo compreso, gestito, perché ci arrivano anche tempi storici. Adesso questo secondo me è un momento storico in cui vanno comprese queste potenzialità di questo principio attivo, così possiamo anche temere di meno. Gestirle, infatti ci sono 11 regioni che hanno in qualche modo adottato la legislazione per far permettere l'uso della cannabis terapeutica. Credo che il tempo sia maturo. Professor Bifulco, un'ultima cosa, l'abbiamo detto un po', ma insomma molti sono contrari solo a sentir nominare la parola marijuana. Ecco, questo ha rallentato la ricerca? Sicuramente. Ed è stata una delle difficoltà più gravi da superare? Sì, ma non solo... anche in Italia, ma in tutto il mondo. Pensi che ancora io, che sono più di 20 anni che lavoro su questo campo, con risultati, diciamo, buoni, anche io ho subito personalmente, sa, sempre un po' dal collega e tutto quanto, che non conosce bene la materia, la cannabis, sì, c'è questo aspetto ricreazionale, ma che io non sono d'accordo, io non fumo, non ho nessuna, niente a che vedere col fumo, ma le posso assicurare come ricercatore e come professore che si occupa anche di quello che trasmette le informazioni al pubblico, qui ci sono potenzialità enormi. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666. L'SMS, questa riguardava naturalmente le persone, ma Giampaolo Grassi è ricercatore del CRA, che è il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura di Rovigo. Ecco, il professore fa ricerca sulla canapa dal 1994. Tra le centinaia di varietà di piante di cannabis, come avete selezionato la cannabis migliore per l'uso in campo medico? L'abbiamo sessionata chimicamente e quando abbiamo trovato l'ingrediente giusto... Avete detto, eccolo. Ecco, ma da dove vengono le prime talee su cui avete iniziato la ricerca? Beh, le abbiamo fatte su semi di qualunque provenienza, varietà o accessioni che ci scambiavamo tra istituti di ricerca. Quelle buone da dove arrivano? E arrivano da tutto il mondo, ne abbiamo dal Nepal, dalla Cina, anche da certi negozi che le mettono a disposizione o anche da sequestri che hanno fatto la polizia. Inizialmente i primi materiali erano forniti dalla polizia. Senta, voi avete fornito le piante allo stabilimento farmaceutico militare di Firenze, siete voi? Sì, come previsto dal progetto interministeriale. Certo, ma con quali criteri è stata coltivata? Prima abbiamo studiato nel tempo la capacità produttiva, cioè che livello di concentrazione dei principi attivi, in primo luogo la purezza e il profilo della pianta, e poi se il rendimento, la qualità, la sanità della pianta era idonea per questo tipo di prodotto. Ottimizzato il processo, poi questa pianta è stata battezzata come quella ideale, e da lì Si è proceduto. Ecco, ma che rischi si nascondono nella marijuana non coltivata secondo i vostri standard? Noi non sappiamo assolutamente niente della composizione chimica, della contaminazione di batteri, funghi, metalli pesanti, sostanze chimiche. I produttori che sono intenzionati a vendere a peso, ovviamente tutto quello che fanno lo appesantiscono il più possibile con tutti i sistemi e non vogliono perdere assolutamente niente della produzione, per cui i trattamenti vengono fatti a necessità. Certo. Noi invece abbiamo operato completamente in assenza di trattamenti chimici, evitando preventivamente. E quindi siete arrivati a delle chiarezze molto maggiori. Soprattutto a prefigurare quale sarebbe stata la qualità del prodotto finale, ecco, che poi viene verificato. Certo, ma qual è il livello di THC che deve essere contenuto nelle piante di canapa a uso terapeutico? Se vediamo gli esempi da altri paesi che hanno iniziato 10 anni prima di noi, il livello va da circa il 10 al 20% di THC. Oppure ci sono anche delle miscele di due cannabinoidi al momento fondamentali, che sono CBD e THC, sì. E questo è un rapporto 1-1 con una concentrazione indicativamente del 6-7% di entrambi. E ultimamente ancora di più solo CBD. 800-24-0024, numero verde. 349-238-6666, l'SMS. Sono paralizzato dall'ombelico, diciamo, in giù. Io mi sento con un fuoco che mi avvolge. Dolori, rigidità, stanchezza. Diventavo progressivamente rigido. Talmente rigido che non riuscivo neanche a camminare. Io ho cominciato ad usare la marijuana per fini terapeutici nel 96. Io so che funziona. E la canapa mi aiuta a mantenermi calmo, mi rilassa la muscolatura. Usando i cannabinoidi mi si affievoliscono molto i dolori. Sono sempre stata molto scettica su questa cosa all'inizio. Pensavo no, non fosse possibile. Finché non ho capito da sola che effettivamente questa marijuana agisce come mio rilassante e su di lui ha funzionato. Perché è un tuo diritto quello di poter dire: io con questa cosa sto bene e voglio semplicemente stare bene. Quando una persona ha problemi, ha dolori, automaticamente cambia l'espressione facciale, si crea una smorfia in faccia. Questo tende ad allontanare chi ti sta intorno, mentre con la canapa ci si rilassa. Ecco, oltre ai dolori fisici, i malati affetti da dolore cronico devono affrontare anche grandi difficoltà sociali, lo sentiamo. Professor Poli, primario dell'unità operativa complessa di terapia del dolore a Pisa. È così come hanno descritto i malati che abbiamo sentito la situazione? Sì, è vero, è vero. La cannabis aiuta molto i malati. Devo dire questo, che io in realtà all'inizio ero contrario quando si presentò la possibilità di poter prescrivere la cannabis, non ne vedevo l'utilità. E quando ha capito che queste medicine invece poteva aiutare la vita dei malati? Cominciando a usarla, i miei collaboratori hanno cominciato a usarla, dopo qualche mese vennero da me e mi descrissero i miglioramenti che avevano avuto, non tanto nel dolore, perché poi la cannabis non è un grande farmaco analgesico, facciamoci certo, chiaramente, ma più che altro nella spasticità, nella cefalea, nell'emicrania, nella fibromialgia, quindi cominciai a usarla. E a quanti pazienti somministra farmaci a base di cannabis oggi, allora, professor Poli? Abbiamo 600 pazienti in terapia, ma che stanno aumentando continuamente. Certo. Di questi 600 pazienti alcuni l'hanno abbandonata. Molti l'hanno abbandonata per vergogna, specialmente per vergogna. Di una certa età l'hanno abbandonata per vergogna. Perché non usare farmaci a base di cannabinoidi e non i FANS, cioè gli antinfiammatori, non steroidei, allora, insomma? Innanzitutto c'è la grande differenza, è gli effetti collaterali. Cannabis praticamente a dosaggi che usiamo noi, che sono veramente dosaggi estremamente bassi, non dà effetti collaterali, sono molto molto rari. E invece i FANS? I FANS purtroppo hanno degli effetti collaterali veramente molto molto gravi, alcuni anche vengono taciuti, quali ad esempio problemi a livello ematico, provocano facilmente trombosi, ci sono degli studi molto molto recenti dove viene descritto proprio l'insorgenza e la frequenza delle trombosi negli anziani che fanno uso di farmaci, pazienti che molto spesso muoiono, ma tanto sono anziani, quindi non si va a ricercare bene la causa, uno pensa a problemi vascolari, in realtà la morte molto spesso è causata da farmaci. Ma come vengono somministrati i farmaci a base di cannabinoidi? Allora, vengono essenzialmente, fondamentalmente per bocca attraverso un decotto. Stia ben attento, non una tisana, un decotto. Quindi praticamente l'erbina, proprio la sì, cannabis. Pedro, sì. È proprio l'erba che viene somministrata, viene messa in fatta bollire per 30 minuti sì. con l'aggiunta di una sostanza oleosa o di latte, perché purtroppo non è idrosolubile ma è liposolubile la sì. cannabis, e quindi poi il paziente la assume una tisana. Ma perché non si può fumare direttamente la marijuana? Perché in teoria si potrebbe anche fumare, addirittura noi stiamo cercando di trovare delle metodiche di somministrazione, ad esempio per i pazienti affetti da cefalea con aura, e quindi al momento che hanno l'aura loro hanno questi segni prodromici della cefalea, quindi vorremmo noi una sostanza, quindi una cannabis che venisse assunta molto rapidamente per interrompere proprio questi effetti. Ecco, ma quali possono essere gli effetti collaterali di un utilizzo fai da te del principio attivo del THC? No, il problema è che esistono 350 tipi diversi di cannabis. Ah, certo. Quella che invece noi usiamo, chiamiamola la cannabis di Stato, fra virgolette, è una cannabis che noi conosciamo, è una cannabis che noi sappiamo bene la sapete qual è esattamente. È un farmaco. Ma fino ad oggi noi compriamo i farmaci a base di cannabinoidi dall'Olanda. Produrli in Italia quanto abbasserà i costi? I costi, diciamo, dei farmaci analgesici o antispastici sicuramente andrà a influire tantissimo, ecco, sull'abbassamento dei costi. Certo. Abbiamo visto per esempio pazienti midollari, pazienti, per fare capire, quelli che sono in carrozzina, che hanno subito sì. un trauma, che hanno quelle crisi tonico-cloniche, che non sanno, diciamo, come farle passare, hanno dei benefici enormi. Malattie come la SLA hanno dei benefici enormi, quindi tutte le malattie del sistema nervoso centrale veramente hanno dei benefici. Cioè la sclerosi multipla viene molto aiutata. Sì, tantissimo, ma tantissimo. Quindi ecco, li sto enumerando delle patologie per le quali noi stiamo già trattando questi pazienti, dove vediamo dei risultati. Ora, non è una sostanza miracolosa, parliamoci chiaramente. No, certo. Per noi, per esempio, nel paziente oncologico, si parla tanto del paziente oncologico, in realtà la cannabis è un adiuvante, come può essere il cortisone. Quindi va usata nel paziente oncologico. Perché? Perché gli favorisce l'appetito e li evita, per esempio, o li diminuisce la nausea e il vomito determinati dalla chemioterapia. Queste sono le azioni fondamentali, certo. ma non ha un'azione analgesica così potente come si può pensare, non è paragonabile alla morfina, all'ossicodone, all'idromorfone, a tutti i farmaci che noi trattiamo comunemente e che usiamo comunemente. Senta, ma chi assume questo tipo di farmaci, per esempio, può guidare? No. Ecco, lì è un problema. Vorrei dire che 15 giorni fa abbiamo fondato una società scientifica, che è la prima società scientifica a livello nazionale, che si occupa proprio dello studio della cannabis, quindi completamente apolitica. Noi non ci interessa la liberalizzazione sì. della cannabis, noi studiamo la cannabis, la sì. cannabis di Stato, la cannabis farmaco, e in questa società abbiamo aperto anche agli avvocati, quindi ai giuristi, perché si possa intraprendere un percorso in maniera da dividere, da separare quello che è l'uso terapeutico dall'uso ludico, certo. e quindi chiaramente evitare in qualche maniera le punizioni. Lei capisce, non si può guidare con la cannabis, ma non si può nemmeno guidare con le psicofarmaci. Ah, naturalmente. Neanche. Senta, ma con il decreto legge del 2014 in che modo è stato sì. semplificato l'accesso a questo tipo di farmaci? Allora, attualmente qualsiasi medico può, in Italia, può prescrivere la cannabis, addirittura off-label, cioè al di fuori di quelle che sono le indicazioni terapeutiche, in base alla sua esperienza. Sì, ad certo. esempio, noi usiamo questo farmaco anche off-label, perché sì. ci sono dei lavori, specialmente lavori americani e lavori olandesi, dove la cannabis è stata usata. Però, vede, non ci sono dei lavori seri, ma non perché non l'hanno fatto delle persone serie, perché non c'era il principio attivo. Non c'era il principio attivo, certo. Ha capito? Quindi cominciamo ora noi con questo farmaco. Senta. Senta, professor Polo, un'ultima cosa. Ogni regione però decide come e se introdurre questa terapia. Ecco, che cosa le fa decidere in un senso o nell'altro? No, non decide come introdurre la terapia. Ogni medico è libero di prescrivere la cannabis. Il problema è la rimborsabilità del farmaco. Cioè, ogni regione decide se dare il farmaco gratuitamente a quali pazienti e per quali patologie. Ah, ho capito. Questa è la cosa importante. La differenza è questa, chiaro. La differenza è questa, però in teoria in tutta Italia, perché la legge è nazionale, certo. Quindi tutti i medici possono prescrivere la cannabis. Ecco, i tantissimi sms che abbiamo ricevuto su questo tema, ricordo che naturalmente Fabio da Cremona per tutti, più o meno questo è il discorso che fanno quasi tutti, che noi oggi abbiamo affrontato il tema esclusivamente dal punto di vista dell'uso terapeutico della cannabis e non da quello ludico, naturalmente. Questo sarà un tema di altre puntate e altre discussioni. Pubblicità. Mix 24. Fine dell'estate e delle chiacchiere nel bar e delle occhiate dentro il bar. Allora Pietrangelo, intanto una notizia, mi sembra che la metropolitana funzioni a Roma. No, devo contraddirti, perché oggi ho fatto a piedi la strada. Oggi sono venuto a piedi e hai scoperto che l'estate è finita. E appunto per questo, perché siccome c'era questo irresistibile sapore del bagnato nel cielo e nell'aria, ho voluto camminare, perché la pioggia, poi mi sono accorta, ha portato avanti in un solo colpo il calendario ed è sembrato proprio come la fine dell'estate, con le chiacchiere, le occhiate dentro i bar, i profumi ovunque, l'acqua a fare da solvente agli umori. E c'era questa nube che era una spugna sospesa in cielo a gocciare di malinconia, proprio come a settembre. E poi d'improvviso ho visto ragazzi pronti a prendere le bici, discutere con queste, correre dentro un pentagramma, che è quello utilizzato in questa splendida canzone di un, con una sigla bella dei giornalisti, La fine dell'estate. Ed erano tutti armati di baci, arrivati proprio alla fine dell'estate. Ed è la grande musica italiana. E auguri a tutti quei ragazzi che oggi cominciano la maturità. Con delle tracce di temi cretini, ma più cretini che non si può. È veramente un regime di cretini. Ah, mamma mia. Ma una retorica, ma che si vergognassero. Mario, nella tua pentola oggi cosa bolle? Abbiamo ripescato perfino Casey e Sunshine Band, non dico altro. Con Alessandro, senti, vecchi ricordi, vai. Però suonavano bene. Accidenti. Allora, che cosa succede? Ma io voglio fare un po' di commenti alle cose che sono successe ieri, forse meritano due o tre riflessioni, proviamo, nostre. Renzi è andato a porta e ha messo alla porta Ignazio Marino, virtualmente quantomeno. Mi pare che il Premier si stia preparando allo tsunami della terza ondata di arresti ormai annunciati, sembra imminente, ne abbiamo parlato anche ieri qui. Il lavoro di Matteo Orfini come commissario del PD a Roma mi sembra anche quello in discussione. A questo punto. Sì, assolutamente. E a questo punto, secondo me, il fatto rilevante sul piano politico diventeranno solo le nomine governative, anche perché l'agenda di fatto la sta costruendo di nuovo, come è successo in passato, la magistratura. Quindi non so, vorrei capire da voi se la vedete, se la vedi così anche tu Giovanni e anche tu Pietrangelo. Ma esprimetevi dunque. Io penso ci esprimiamo. Vai. Ma io penso che a Roma non può andare avanti così, perché sennò non può essere che Marino vince su Renzi, oppure se Marino vince su Renzi bisogna prenderne atto. Allora significa, anzi, che ha perso Renzi che ne deve prendere atto, sì, mi pare, semplificando molto. È interessante, no? E quello che sembra il problema fondamentale, mafia capitale, è in realtà l'ultimo dei problemi, perché la città di Roma, così com'è, non è governata. E ripeto, come ha detto Giovanni, se lui non se ne va, è la pietra tombale sul cosiddetto renzismo. E poi ieri abbiamo sentito qui Marchini che diceva che secondo lui non è arrivato ancora il finale, infatti, di Mafia Capitale. Sì, diciamo, sento rumors di palazzo, no, come suol dirsi, che dicono che tintineranno ancora le manette. E vai. Salamino! Palermo, Domodossola, Bologna. Dunque una sigla che non è un'indicazione stradale, non è un allegro percorso turistico e neppure un rebus. Allora, Palermo, Domodossola, Bologna, ovvero PDB, cioè Paolo Del Debbio. È il filosofo, star di quinta colonna, è sempre lui il simpatico, pacioso e camorrioso toscano, animatore di piazze televisive, risultato, e non a sorpresa, come leader ideale del centrodestra. Il centrodestra non è morto. Sì, tutto ciò, Paolino, in un sondaggio del Fatto Quotidiano, che sono stati interpellati parlamentari. Ma, lui, unico, ma, insomma, no, ma lui è quello che è risultato primo, sì, perché sono stati interpellati parlamentari dell'area ex PDL, cioè forzisti, leghisti, verdiniani, alfaniani e marziani di vario genere. I nomi, appunto, come diceva Giovanni, sono 5. Paolo Del Debbio è quello che totalizza il gradimento più di tutti gli altri. Poi c'è la Carfagna, Mara Carfagna, Alfio Marchini, che abbiamo avuto ieri ospite qui da noi, Marina Berlusconi e Matteo Salvini. Di quest'ultima, a sorpresa, si dice persino Di Maio spaventa di meno. Quindi urge un papa straniero. A sinistra lo hanno individuato immediatamente Roberto Saviano, che è il papa per eccellenza. A destra si cerca qualcuno che sia in grado di tenere insieme liberali, populisti e femminari, e che sia libero dai soldi. Ora, assodato che PDB... Ma è libero dai soldi, tu andresti benissimo. Nel senso di bambole non c'è una lira. E poi mettere insieme liberali, populisti e femminari. Sui liberali ho dei dubbi, comunque. Sui populisti e femminari invece. Allora, tutti aspettano l'ultimo giro di giostra di chi? Di Berlusconi. Però lui che cosa ha detto? Ha già detto: I did it my... Lui consegna la sua vita ad Alan Friedman. E già è un segnale meraviglioso. Alan, e sapete cosa sarà questo segnale? Com'è? Il canto del cigno del berlusconismo. Farà marameo a tutti. Pane vin non ti mancava, l'insalata era nell'orto e una casa. Prima o poi canti, eh? No, non è che tu guardi me, io non canto marameo perché sei morto. Canti tu, buttafuoco. Siamo chiari, perché mi guarda, è da due anni che mi guarda e spera che io canti. Che ma secondo te io noi canto abbiamo, questa abbiamo roba? Abbiamo, cioè, dei file segreti dove tu cantavi, sì, ma queste useremo alla fine. Li usate per ricattarmi. Esattamente, per quello che sei buono. Tu, se canta Travaglio, eh? Posso cantare tu io, chiaro? No. È fantastico, senti. Vai, Ale. Ah, vai, ma almeno un po' di brio, altro che marameo perché sei morto. Senti. Oh, questo è un remix di un grande successo che è Sexual Healing di Marvin Gaye. Prosegue, chi vuole se la ascolterà su Spotify. Faremo una nostra playlist a questo punto. È un po' di ritmo, perché insomma di ritmo nel mondo dell'economia ce n'è moltissimo in questo momento. È un bel saliscendi, montagne russe si dice in gergo. Tutti aspettano il Grexit, cioè il sirtacchi finanziario è la cosa più importante. E ci sarà? Temo di sì. Insomma, il Sole 24 Ore oggi, tanto per citare un giornale che conosciamo amico. Bene, che è amico, ciao Roberto, titolava sui bond a 2 anni al 30%, cioè sono tassi da crack, ovviamente. Poi magari riescono in extremis a trovare un accordo, però stiamo parlando di una situazione da roulette. Esatto, scannatissima, sì. Proprio da roulette. Ti te lo ricordi il cacciatore, no? Certo, con la fascia rossa, esatto. il proiettile, la pistola, siamo così. Che cosa sta succedendo? Interessante, perché stanno già prendendo ovviamente le contromisure, quindi i gestori dei grandi fondi stanno aumentando la liquidità presente in portafoglio e diminuiscono l'equity, cioè gli azionari, i titoli e così via. Perché? Perché temono che dal Grexit arrivi comunque uno scossone alle borse con alti e bassi, speculazioni e così via. Quindi aumentano la cassa per tenersi un po' al riparo. È aumentata dal 4,5 al 4,9, sarà anche più alta come composizione percentuale a breve. L'altra cosa che stanno tenendo d'occhio è la Federal Reserve, che finisce oggi la sua riunione. Sì. Non dovrebbero esserci decisioni imminenti sui tassi, ma si capisce che ci si sta avvicinando a quel momento. Anche lì i gestori dei fondi pensano che un aumento dei tassi provocherà uno scossone sui prezzi dei listini nei prossimi 3 mesi, come già avvenuto nel 1937, quando la Fed, dopo la Grande Depressione e la ripresa, fece una stretta monetaria e provocò un crollo dei listini. C'è tutta una casistica su questo. Se andate sul sito della Federal Reserve Bank of New York trovate anche lo studio che si occupa di questa cosa, per i cultori della materia, diciamo. Pensa alla grande, sii ottimista, non dare mai segni di debolezza, mira sempre dritto alla gola, compra poco e vendi a molto. La paura è un problema che non ti riguarda. Chiaro. L'esperienza precedente può averti preparato per assistere alla carne. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666, l'SMS pubblici. Mix 24. Sara Tardelli. Chi era questo Leonard Zelli che sembrava suscitare dovunque impressioni così diverse? La dottoressa Fletcher organizza una serie di esperimenti ed invita gli scettici colleghi ad osservare. Quando fanno entrare due francesi, Zelli si appropria del loro carattere e parla francese abbastanza bene. Accanto ad un cinese comincia ad assumere un aspetto orientale. A questo punto la storia è trapelata alla stampa ed il pubblico, assetato di emozioni e novità, ne è subito accattivato. Ed è proprio sulla stampa che ho appreso di un Renzi 1, il rottamatore, e un Renzi 2, il mediatore. Renzi 1, il rottamatore, ha detto a Renzi 2, il mediatore: Casson, Paita, Moretti, io non ho messo bocca e guarda com'è andata. E allora Renzi 2 subito risponde: ma al governo abbiamo fatto cose tecnicamente straordinarie, anche all'estero l'immagine è migliorata tantissimo. Ma per Renzi 1, rottamatore, sono solo alibi che si crea il Renzi 2 mediatore, e adesso tornerà solo il rottamatore. Mi rimane solo un piccolo dubbio, non so, per esempio, sulla gestione dei profughi. Renzi 1 è quello che annuncia un piano B in barba al blocco delle frontiere, o è quello che appena sbarca in America pensa solo a provare Google Glass? Oh, sassolino nella scarpa. Mario, sta succedendo. C'è una tutto, bolla ancora? Sì. Aspetta, prima Star Wars. L'impero colpisce ancora. E niente, solo per dirti che una cosa, una curiosità cinematografica di cultura e di libertà, è il primo film della saga di Guerre Stellari del 77 va sugli schermi cinesi per la prima volta oggi. Sono passati solo 40 anni, lo segnalo, quindi tu potrai anche essere avviato a diventare la prima potenza economica del mondo tra un po', però insomma forse qualche problemino con la libertà ce l'hai. No, segnalavo che ci sono perquisizioni alla RAI, alla 7 della GDF per appalti, non ho capito, anche in media, non ho capito bene, adesso stavo guardando queste notizie qua. Poi è morto un immigrato in un centro di accoglienza a Roma, probabilmente si tratta di una cosa violenta, ma diciamo, insomma, non una mattinata, una mattinata pessima, calda. Salamino! Una notizia. La statua di Maria Vergine, protettrice della città di Malahula in Siria, è stata ricollocata al suo posto. Sta sull'altura che domina le case e le anime. Era stata distrutta dai ribelli siriani, arrivati in città per portarvi la democrazia e la libertà. È ovviamente una statua nuova, commissionata e poi trasportata in cima dai combattenti siriani, che sono cristiani e musulmani riuniti nella stessa formazione militare. E tutto ciò a dispetto delle primavere arabe, dei ribelli e dei terroristi tutti, benedetti come liberatori dai soliti Bernard Levy di turno. La Siria ha dunque offerto questo colpo di scena e si contraddice il racconto di questa liberazione con molte virgolette osteggiata, oltre che dalla popolazione siriana, da soli due soggetti dello scacchiere internazionale, e cioè l'attuale pontefice di Roma, Bergoglio, e Vladimir Putin. Nessun giornale, nessun TG ha raccontato il ritorno della Madonna a Malula in Siria. Unica eccezione in Occidente è stata Radio Vaticana. E adesso, Giovanni, ti dico grazie e ripeto, la Madonna è tornata sull'altura che domina la Siria a Malula. Marina? Marina, sì. Marina Milone, oggi che storia ci racconti? A proposito di spiritualità, raccontiamo la storia del mistero delle stimmate di Padre Pio, il frate di Pietralcina, contestato e osannato, criticato e infine santificato. E cerchiamo di far luce su questo mistero attraverso due visioni opposte, quella di un ateo e matematico Pier Giorgio Di Freddi e un credente giornalista Andrea Tornielli. Bene, allora dopo il giornale radio, la storia contrastata e molto discussa di Padre Pio. Per chi si fosse perso naturalmente un pezzo di questa puntata, può ascoltarla in replica questa sera alle 23. C'è qualche aggiornamento, Mario? No, è una storia d'appalti, quella delle perquisizioni Rai, Mediaset e la 7. Ma, insomma, mi sembrano le cose normali. Ma sì, normali. Verifiche. Non lo so. Ma... E allora, prima della pubblicità e del giornale radio, Tu non mi basti mai, di Lucio Dalla. Vorrei essere il vestito che porterai, il rossetto che userai. Vorrei sognarti come non ti ho sognato mai. Ti incontro per strada e divento triste, perché poi penso che te ne andrai. Vorrei essere l'acqua della doccia che fai, le lenzuola del letto dove dormirai, l'hamburger di sabato sera che mangerai, che mangerai. Vorrei essere il motore della tua macchina, così di colpo mi accenderai. Tu non mi basti mai, davvero non mi basti mai. Tu dolce terra mia, dove non sono stato mai.